sta parlando? No, mi do la telefonata. È giusto. Basta la chiamarmi un attimo così ti risponde qua, adesso devo farti un vocale, 20 minuti, bro. Tutto a pennacchiette, sì, col micro. C'è qualcosa di toccato, perché stavo facendo le prove di ricezione per l'apparecchio di Torino, praticamente risolto. Un casino. Queste non sono riparazioni, queste sono ricostruzioni, roba, capito? Questo proprio ce lo devi ricostruire e poi devi fare una sorta di retro engineering, perché devi capire quelli che l'hanno costruito cosa c'avevano in testa, devi capire cosa c'avevano in testa le persone che ci hanno messo a mano, che sono persone diverse, ognuno ha tutte le idee, quello sta andando qua, quello modifica una cosa di là, e dice una tensione dall'altra parte, quella frequenza lì è stata per questo motivo, un casino. Ma questo che sta uscendo non è quello di Tonino? No, negativo. Ma c'è ancora il rumorino? Certo, bru bru bru, come schiacci o c'è qualcosa vicino. È il tasto, cioè devo cambiare il tasto, che palle, magari usando adesso lo schiacciare su che dopo se ne va. Vedi, è il tasto, ma guarda, ma manca questo nuovo. L'M600? Capo, c'è questa scheda, il cavo che si rompono sempre e io, capo, questo era tutto sgrindellato quando l'ho ritrovato come tanto. Ed è messo un pulsante che uso di solito come test per, come dire, compra apposta per accendere il test per le batterie dei camper. Infatti anche il mio è una cagatina col tasto piccolino del PTT e poi c'è il lock. Capo, il lock già non funziona più, non mi ricordo quel circuito qua che ho fatto. Però era, vabbè, ha fatto pure spettacolare questo microfono, è nato per quello che sto, scusa, che ho usato in questo momento, però nel frattempo ha fatto microfono di chitarra, addirittura un giorno ho registrato un sax e sai come è uscito bene. Come mi sei certo? Stampa, ho giocato con le scampe, con l'interesse, con l'amplificatore, ci sono affidati. Poi ha attaccato un mixer e facciamo un modificato vecchio. Hai presente quegli effetti strani che faccio ogni tanto? E ho visto uno carino, una scatoletta che non mi ricordo chi lo faceva, e c'era il coso del film Il buono, il brutto e il cattivo, anziché il bip faceva ta na na ta ta ta, il bip al posto del bip. Brava la Marti, sì, sono quelli con 16 bip. Io ricordo che avevo un S24 modificato e poi non mi ricordo che apparecchio, forse quello che ho usato un periodo, avevo preso apposta per tipo una modifica accolta, hai presente? Questo era tutto modificato, usciva con 200.000 watt, aveva canali, con 450.000 canali, è un cacchio unico, c'è un Elvex, ma è un po' cicciotto, un po' grande, ha delle dimensioni del tornado più o meno. E poi c'era la scheda dentro a 4 bit e l'S24 aveva 2 bit, perciò quando staccavo un po' tanto. Guarda, ne ho visto uno l'altro giorno, un baracchino, un S9, però non qua in Italia, fatto forse in Messico, un paese dell'America Latina, tutto modificato, stramodificato, non so, mi pare che c'era una roba di 200 watt, dissipatori allucinanti, tutto modificato, poi sopra hanno messo questa scatolina che aveva tutti i possibili immaginabili effetti, e per dire c'aveva il bip, e poi addirittura poi se volevi ci potevi mettere anche la tua voce per dire operatore Roberto Quadrato bip, e poi cioè, ti registrava anche la voce, potevi mettere i messaggi che volevi, qualunque cosa, le musichette, ma carino. Vabbè, ma se di questa è la nostra maniera forse non è il massimo, dai. E io ogni volta che attacco inizio a mio master QTH1 ufficiale, lunettone, antenna centro ringhiera, turbo 2001, cosa posso dire? Ah sì, 4 watt, ma l'antenna ha tutti i diritti di cavo, va bene. Certo, cacchio, ne aveva fatto di tutto, e poi c'era anche la colonna sonora, si metteva di tanti cose, di film famosi tipo Lo Squalo, faceva dum dum dum dum dum, poi c'era Il buono, il brutto e il cattivo, film tutti quelli più famosi di tutti, Happy Days, di Grease. Questo è come quello che c'è il camper, che tra l'altro gli state anche qui in Valutia, un bel camper, cattuto, su turbo di 3000, 2008 forse era quello, un Lanca, volta, insomma. Si vale una ventina di migliaia adesso, che è già passato, mi sembra che sia nel 2001, roba del genere. E ci ha messo le trombette, molto le trombette, due del genere la storia. Le trombette quello che vanno l'acqua, no? Allora io quelle ce le ho conservate in officina, sono 5 trombe di diverse misure. Aspetta, mi stanno chiamando il telefono, scusa un attimo. Che sta girando, che tranquillo. Ecco. Eccolo. Bene. Anche tu comunque attieni, non sei male. Ehi, vabbè, già confondimi, almeno quando arriva il cellulare mio, so che è il mio, no? Non è una dei tanti. Ma di solito quello che squilla è mio, sarà che squilla tanto. Cosa c'hai, che squillo c'hai tu? No, normale, non squillo normale. Uno di quelli del Bolt, non quello più comune, ne ha messo un altro, non so se ti squilla la sera, però, cavolo. Continuamente, capito? Sì, a che lo dici? Ho dovuto cambiare il numero io alla fine, cacchio, perché sennò guai. Lo sapeva mezzo mondo per questioni di lavoro e di sport, c'avevano 2000 numeri gli amici, i conoscenti, eccetera. Questo non è che c'erano tantissimi, però anche qua mi rompono le scatole. Vabbè, in questo caso era mia figlia, non era un rompimento di scatole. Per rompimento di scatole per altre cose. Ok, vediamo un attimino sul 10, se entra qualcuno, solo riprendi tu Fabio. C'era comunque propagazione nel Belgio poco fa. Dove Ehi, sempre Belga che stava tirando, ma di propagazione o di potenza? Oh, era un segnalone, più di 9 arrivava qua, non so se stava sparando chissà che cosa, la voce era bella piena, sembrava una parata HF dalla modulazione. Sicuramente c'è una cosa, insomma, se poi non è sentito solo uno o due, vuol dire che hanno fatto, se sentire molto strane, fischi, eccetera, sono in tanti, vuol dire che la propagazione è forte, allora... Guarda, ho visto un video oggi, dura un'oretta, non l'ho visto tutto in una volta, l'ho visto a tratti, di questo, diciamo, chiamiamolo radioamatore, però è un appassionato, c'ha un capannone e c'ha un gruppo elettrogeno da 60 kW, per dirti, e questo qua, e ha fatto vedere un po' di apparecchiature, e adesso sta provando questo trasmettitore da 50.000 watt, effettivi, senza tirarlo troppo, era per uso, non so, forse di qualche radio bloccato in cosa del genere, perché era per lavorare 24 ore su 24, raffreddamento al liquido, eccetera, eccetera. E stava spiegando un po' tutti i passaggi di cosa cacchio di questa roba qua. E c'ha 3 valvole da 15.000 watt, però non tirate, ne da tira anche 50-60.000 watt, tira questa cosa. E stava facendo vedere un po' le tensioni di lavoro di questa cosa. 80 ampere di coso con 7.000 watt con 7.000 volt, era una cosa, e poi c'aveva il wattmetro, aveva attaccato il wattmetro, Mirda arriva fino a 25.000, aveva avuto, non so che modifica ha dovuto fare per farlo funzionare, ecco il gruppo elettrogeno a 60 kW non è riuscito a farlo partire, cioè non riusciva a dare tutta la prima potenza, arrivava intorno ai 40.000 watt. Cioè 80 ampere anodica, sei tornato sotto? Era Riccardino, ciao Riccardino, dove sei tornato? Dove stai trasmettendo? Con un portale? Sei bassissimo Riccardino. Io sono bassissimo. No, adesso sei ritornato un po', alto. Eri Santiago 8 poco fa, adesso sei 9 più 20, cosa hai toccato? In car, stavo facendo regolazione con Fabrizio. Ma c'è Fabrizio lì? No, via telefono. Però sei sceso di colpo di segnale 8 e poi adesso sei salito a 9 più 20. Però devo tenere la Santiago 5, ecco quanto sto arrivando. Prova. Attenzione, perché so che il carro lo devo tenere a Santiago 5, quindi l'ho regolato come mi hanno detto. Anche un pochettino di più, poi dai, sei 9 più 15. Così come sta andando? Quanto sei adesso tu? Cioè che cosa? Il carro da quanto è importante muta? A Santiago 7. Più o meno lascia così, dai. Ok, stranamente uscivi più forte ultimamente, non capisco come mai si sia abbassato così tanto. Ma che cosa? Di segnale? Di segnale tu, c'è stato un periodo che arrivava ai 9 più 30, quasi 9 più 30, adesso sei 9 più 20. Ho capito, 9 più 30. Adesso forse sono salito un pochettino, che l'ho portata a Santiago 8, no. Ah, oh, vabbè, non si è cambiato di niente, lascia un po' di meno di petrol a 6, intorno a 6, dai, 6, 7. Boh, è a Santiago 6. Lascialo così, c'è anche Fabio, avanti Fabio per ritardo. Fabio, anche ho seguito la stazione di Santiago, sempre che lui stavo cercando di cuffie dall'altra stazione, ma la stazione si riuscire ad ascoltarsi perché arrivo di battissimo qua, anche sulla stazioncina. E ora invece è tornato a essere quello subito che mi sollecita la parte finale dell'Inter. Ben entrato, ancora sperimentando? No, non so. Aspetta, ho mollato il PTC perché non sto usando il locro. Sto sperimentando. Ma se ti vedo fila in molla, alta, bassa, eccetera, è a posto la salita, come lo senti? Sta andando bene? Ha un altro piccolo problema. In ricezione AM? No, in trasmissione SSB. Regola SSB è il problema. È un casino. È veramente un casino. Quando se ne va degli SSB è un problema. Ti serve il truffio? No, lo uso per fare gli ex, se no attacco il barattino. Normale. Oh, ho trovato un'altra cosa nell'orto. Io devo venire da te a giocare. Ho trovato, parlando al telefono come a te, ho trovato la base di un'antenna CTA International. Magnetica? Boh, non lo so se il sotto aveva la base magnetica, mi ti mando la foto. Hai trovato l'attacco praticamente, l'attacco, la baionetta dell'antenna, ma com'è, a vite oppure la baionetta con la chiavetta di lato? No, è a vite da sotto. Ma sotto come attacchi l'antenna, gridando la con un piede? Sì, gli devo attaccare un adattatore e gli devo attaccare una... Aspetta, ti mando la foto, non te lo so spiegare. Hai capito? Come c'è il nostro Roberto? Questo è tipo il film di Pinocchio che piantava i soldi e crescevano negli alberi. Sì, ho capito. Sta bloccando la passarrata, portando le cose perché la vuole disperata per il suo ordine, hai capito? Ah, Ruggero. Sì, aveva detto, noi da prima della cosa mia moglie. Però vabbè, portiamo qua, portiamo là, adesso facciamo ordine, portiamo di là. E lui si porta lì, ha finito un rosmetro in mezzo all'orto. L'altro pulito funziona. Così è. Così anch'io. Nell'orto ho trovato, un omologato. Un 140 buttato in terra. Buttato no, è messo sul pellicolo, non ci va solo la QSO. Ma tu la vuoi sapere una cosa? Tempo fa, stiamo parlando una decina di anni fa, sono andato in casa di un amico mio perché in campagna, lui c'ha la campagna ottava, e stavo vedendo le robe, lui è appassionato come me di moto, di macchine, eccetera, eccetera, e abbiamo fatto uno scambio, stavo camminando lì nel suo garage, nella specie di tettoia, ho visto due trasmettitori, un pilota, un amplificatore e un altro finale più grosso. E beh, questi cazzo, dove li hai tirati fuori? E dopo ci riconosco, erano RVR, erano di Radio Uri, no, li ho trovati di lì, via Grazzadere, li ho buttati a Franca Cassonetto, sotto, ho detto, ma anche a te, dove c'è banquessa? E no, questi sono i trasmettitori di Radio Ulide, c'era un finale da 400 watt della RVR, un eccitatore e poi c'era il pilota, lampaddi, quelli erano funzionati fino a tempo prima, poi non so se la valvola magari era esaurita, ecco, adesso la transito, e te qui, lampaddi di lì, li vuoi, cacca, adesso non me ne faccio più niente, ma prima, cavolo, ma le trovate? Ma lui l'ha preso così come scatto la miglia, erano buttati all'aria aperta nel terreno suo, cacchio fatto, davanti fare una cosa che costava milioni e milioni, un amplificatore a 400 watt effettivi 24 ore su 24, a pagare sui 2 milioni, 2 milioni e mezzo, forse anche di più, l'RVR costava anche di più, diciamo 2 milioni e 8, più o meno, più il pilota e l'eccitatore, almeno 1 milione e mezzo l'uno glieli dà. C'è questo brr. Oh Fabio, mi guarda la foto, dimmi cosa ne pensi. Aspetta, non so la galleria perché... questa è la base di un'antenna. Ma sotto ha un attacco a vite, tipo PL. E perché non ti è arrivata la foto? Sì, ha un attacco a vite, gli viene attaccare una femmina, non un maschio. Ehi, gli attacca, sì, sono le antenne che si attaccano a questo. Aspetta, che rumore. Ma invece c'è, mica di cestino. Vai a vedere. Scusate. Apri qua. Ok. Così vado bene, sta andando bene. Sì. Scusa. Sì, guarda, questo. Quanto ti va a battere l'antenna? Hai ragione. Scritto. Si va l'antenna, mi faccio metà sopra e poi. Niente, questa dovrebbe essere la carica. Parlava già anche Roberto. Ehi, adesso gliela mando, perché come sai l'ho trovata nell'orto, deve essere se giro bene trovo qualcos'altro anche. Ecco, guarda che mi sentirebbe, non diventa sole, guarda che zappando. Forse uno ZG se lo trovo. Così, tra i zucchini e i pomodori. Mi sa proprio. Vabbè, a te se da niente un malice magari. Ma questa è l'antenna, sto guardando che tipo di antenna è però. Aspetta, vabbè, c'è una carica. Sì, no, ma sto guardando se è un'antenna PCB o un'antenna per altre bande. No, CB, quella qui è la CB. Stiamo a parte dall'altra, sì, per una carica, poi c'è tutta un'antenna non caricata. E posto se la base che ha quella tranquillità, capito, è modulare un'antenna in pratica. Quindi l'antenna sopra e la base sopra, questa si è caricata, sicuramente per la 27, per la trovare. Ehi. E come mai, Riccardi, ma dove abitate voi? Cosa c'era di lì? Un'altra famiglia? Ci stava qualcun altro? No, c'era un tipo, però no, quello è il tuo dei babbo. Ah, roba di tuo babbo. Però vai babbo che ha perso. Non c'è stato mai qualche cadavere, qualche persona scomparsa e trovi dentro sottoterra la macchina con il coso, con l'amplificatore di qualcuno che disturbava, che metteva a portante e l'hanno sotterrato? No, niente di questi. Così un po', ma c'è tutti gli anni, quelli da più di bello, proprio, non è che fai male a lui o gli rompi la penna, proprio lo sottili con la macchina, mentre c'è il microfono in mano, così è roba. Fai prima uno scavo, e poi dici, prendi la macchina, li fai manovra e poi lo seppellisci. Il coso, l'antenna, se no devi farlo troppo profondo, ma tu gli lasci solo la base e lo stilo lo conservi. Giusto, risparmiamo. Se lo trovano tipo Pompei, no? Gli fanno il carico, poi trovo anche il microfono in mano, lo vorrei per vedere, la statua di fare. Sì, a chissà, qualcuno già l'avranno fatto veramente, nelle zone dove ci sono quelle zone pericolose, camorra, mafia, 'ndrangheta, qualcuno già l'avranno sotterrato con la macchina pure. Ragazzi belli, io aspettate che attacco lo zodiaco. Attacca, quello che vuoi, Riccardo. Comunque, Fabio. Sono andato col negozio che vende roba usata vicino alla piazzetta, ce l'hai presente, è quasi nuovo. No, me l'ha parlato anche di casino, non ho capito bene. Allora, tu andando dalla strada Alghero, a destra giri alla centrale del latte per andare allo Shan, a sinistra vai verso la piazzetta. Vai avanti verso la piazzetta, superi l'incrocio della piazzetta, di fronte quasi all'incrocio della piazzetta, c'è questo negozio con la napoletana che sarebbe la sorella di quell'altro mercatino delle pulci, e c'è un po' di mondezza, dai, un po' di tutto. Allora di lì interessante, vabbè, c'erano qualche baracchino, ha visto anche Riccardino, e c'era, e lei dice, vedete il satellite mio, quello della Grundy? Non mi dire. Il piccolino, però la versione piccolina, non ha la banda laterale, però è carino, uguale, identico, con le maniglie, come si chiama davanti, l'ha visto, quei maniglioni grandi, però è molto più piccolo, però come stile è simile all'orologio digitale, lo strumentino e tutto qua. Gli ho fatto, quanto lo vende? Ti presente che manca l'antenna di quello lì? Gli ho detto, quanto lo vende? 30 euro. Gli ho detto, 30 euro. Ho detto, ma sta scherzando? Ha detto, non si sa neanche se funziona. No, già funziona, l'ha provato il ragazzo. Ha detto, guardi, se me lo dà 20 euro glielo prendo. No, aspetta. E poi ho visto l'antenna, una magnetica. Ha detto, guardi, antenna e questa radio, 25 euro tutti e due, me le porto via. Aspetti che chiedo al ragazzo, è andato a chiedere un tipo un po' presuntuoso, detto, tra l'altro, e fa 15 euro l'antenna e 25 euro. Ho detto, no, ha detto, vabbè, da 25 euro me le posso giocare. Ho detto, dai, tanto è carino. E sono andato, ho detto, mi dia il cavo che lo proviamo. No, questo è, visto, è piaciuto, non devi, se è piaciuto, allora lei mi dà una scatola vuota, io lo devo prendere, ma questa è roba usata. Mi dia un cavo, uno di anche di quelli dei coso, come si chiamano, dei rasoio elettrico, i classici cavi con il netto posteriore, che hanno quasi tutti gli oggetti, i videoregistratori, eccetera, eccetera. E adesso io non ne ho voglia di alzarmi, non ne ho proprio voglia. Allora, va bene, allora rimane di lì. Se lo vuole così, se non rimane così, allora rimane così. Ma una maleducata, oggi è andato Riccardino e gli ha chiesto quanto lo vende, 35 euro. Ancora è un imbecille, se te lo sto dicendo. Non so quanta roba gli ho comprato io di lì, ma tanta roba anche preziosa, di valore. E solo che questo è così, molte cose non sa il valore, se per dire gli diceva tutto il rotto non serve, per dire sta vendendo un radione grosso, ma bello, non è di grande marca, però con le casse separabili, bello enorme, 50 euro, quello 50 euro si può prendere benissimo. Cacchio, questa radio che è tutta difettosa, tutta piena di coso, di antenna che non sa neanche che funzioni, ne voleva prima 30 e poi 25, e oggi è salito. E poi c'è anche un baracchino piccolino, mi ricordavo Tenco, invece il ricadino mi ha detto che è della Midland. Ah, là c'era un ragione io che era Tenco. E quanto l'ho venduto ricadino? Ho comprato. Però domani vado a vedere se me la dato la radio. Stavo cercando una. Così. La logica della satellite. Tra l'altro io ce l'ho un satellite digitale. Carino 400. Non è un satellite, è un... non mi ricordo se è un... ce lo puoi essere. E cos'è? Ah, uno yacht boy. Classico yacht. Però c'ha l'integratino che governa di play, che purtroppo se n'è andato, quello è un integratino specifico, non si trova. Dunque praticamente la venderò per te. Allora non è digitale, la radio è analogica con scala graduata, però c'ha un sacco di funzioni, c'ha anche quegli effetti che c'ha una volta, stereo tipo dimension che ti aumenta la separazione dei canali, c'ha le memorie, c'ha un orologino digitale analogico nel lato sinistro, uno strumentino, però la scala è graduata e analogica, però ti posso dire non è brutta, come è molto simile, perché c'ha le manopolone grandi, quei maniglioni grandi come i satelliti che ho io. Io ho il 3004, quello mi sembra che sia un 2004 o un 1004, adesso non me lo ricordo. Sai che da una mattina si fa, cioè, no, aspetta, non si può, poi quello che cambia non si fa. Sì, no, ma sono sicuro che funziona, poi è soltanto un po' pulita perché era un po' sporchina, però ho visto tutti i tastini, tutte le cose c'erano tutte, non mancava niente. Ho detto ma qua manca la mano, proprio guardata, no, così, quella laterale, il cambio di gamma e di sintonia, e c'era anche quella, perché sembrava che fosse rotta, questa è tutta sfascia, poi guardata, no, però manca totalmente l'antenna, ma già si trovano quelle antenne a Puglia, ce n'è anche una io, seppure a voi. Infatti qua me ne sono mezzo pentito, però siccome ha fatto la strafottente ho detto ma va a cagare, imbecille. Sì, ma l'antenne costano un minimo 10 euro l'una, perché quelle piccoline, tipo, perché quella ricevitorina che ti ho fatto vedere da 10 euro, ha l'antenna che ne manca un pezzettino, ne manca il pirulino, come si mettono. Sto frugando, ho trovato una simile, ho trovato in garage, ho trovato in bicicli, però c'è un pochino più lunga. Adesso qua, ma la vado a frugare per un attimino. Bizzarro non ce l'ha. Online, tra un cosa ci vogliono 10 euro per forza. Perciò io ti ho fatto il conto della RAG. 30 euro di RAG, 10 euro l'antenna, poi da altri perché magari vedi che c'è un problema. Vai a cercare l'interruttore specifico, chi lo vende sa che lo stai comprando, ti costa 10 euro, capito? Per dirti. Ma la cosa è così, ti ha detto che c'è un problema, c'è sempre io. Vabbè. No, ma è carina, guarda, ti ripeto, solo perché è stata un po' stravagante. A me le persone, è che molte volte ci capita e trovo qualcosa di interessante, se no le avrei messo la croce non ci sarei mai più andato. E anche fratello è uguale, sono molto caffoni, maleducati. Considerando che io gli ho dato tanti soldi, sia uno che all'altro, ho comprato, c'è un po' di riconoscenza, non aveva gana, era seduta all'ingresso parlando con uno, ma per un po' neanche ti dà importanza. Certo, mi porto la macchina, hai più secondo di la Russia, che non ha bisogno di me, durante questo mancino è grosso, però dico che la prima volta senza conoscerci pratica, gli ha trovato molto bene, è giusto, siamo già fatto un po' di amici miei, capito? E porta questo, porta quello, porta quell'altro, alla fine tutti i vent'anni hanno portato, non lo so, 100, 400, 500 macchine, l'amica che ha il problema, quella che non sa dove la fregano, e via, porta l'amica, ma che mi ha fatto, via, le mie macchine, che già io, se te ne avevo 12 minuti, figurati, quante gomme ho avuto bisogno. Quando vado lì, mi tratta sempre in una certa maniera, capito? Ma è normale, anche se ti porta, uno ti porta tante volte la macchina, ti porta tante macchine, insomma, non ti riguarderai. Certamente, ci mancherebbe. Ok, Riccardo, vai a Telmai. Un attimo, Fabio. È al telefono, Tony. Buonasera a tutti. Fabio. È al telefono, Tony. Ecco, mi sta chiamando adesso, ok, ciao. Quello mio, adesso eccolo qua. Ehi, adesso chiamo al telefono, io sono qua sul banco. Roberto, non al telefono, avanti. Ti ha mangiato? No, mangiato. No, Fabio era al telefono 10 minuti fa, poi non so se c'è nel frattempo rientrato. E tu dove sei? E perché sei così basso? Ma quello che piace a me, che ci va bene con l'MB più 5, perché non lo utilizzi? Cos'è? È tornato? No, con il tornato è... Comunque lo sto provando, lo so già con due. No, se 9 più 5 abbondanti, quasi 9 e 10 arrivi. Però eri molto più basso di prima. No, però se aspetta un attimino, riprendo subito, scusa. Eccomi. Hola. Hola. Hola. Questo cosa mi ha detto? È il che cos'è? Lo zodiac, lo zodiac. Comunque c'era un tenco di baracchino, mi ricordavo bene allora. Sì, ha detto che c'era un tenco e solo che l'hanno venduto ieri sera. Cioè, quanto l'hanno venduto? No, non gli ho chiesto. Non sapevo. È una ladra, la truffaldina pura, lascia perdere. Come si chiama? E poi cos'è? C'è un Midland rimasto. È rimasto un Midland. Quello che si colpino con quanto ne vuole di quello? Quello cosa ne vuole? Sembra 20 euro. Però vabbè, uno per pezzi di ricambio, se gli piace il genere, a me non piace. Quello tengo era nuovo, almeno d'aspetto sembrava buono. Ah, ho capito, ma era proprio. Sì, ma deve essere subito dopo che sono andato via io, perché loro chiudono alle 8:15, io sono andato via poco prima delle 8:15. Vai, è stato qualcuno e se l'ha comprato. Boh. Che è Gianni? Gianni è andata a vederla lui? Sì, è andata a vederla, te l'ho detto che non era per la vita. No, io l'ho intravista e boh, l'ho vista appoggiata, non è che abbia guardato le misure o qualcosa. Sì, ho capito, dopo l'avevo vista, io mi racconto anche Gianni, ho detto che non era a vedere. Ah, ma io l'avrei presa non per usarla, per metterla dove c'ho l'altra stanza, dove ci sono la roba audio, un sintonizzatore audio 8808, anziché usare l'antenna filare che non serve a niente, avrei attaccato quella. E come qua in quest'altra, nella stazione dove conosci tu, io stesso c'ho un ricevitore che fa solo 8808, che c'ha l'RDS, e lì ci ho messo un'antenna della 27 caricata. E boh, non lo so, sinceramente, una frusta nera è in coso, in resina, e non è caricata, ha detto una fesseria, è una molla c'ha sotto, vabbè, chiamiamola una piccola carica, quella lì, dai. Questa me l'ha lavata insieme a un baracchino, non so se sia un Alan 86, boh, non lo so, uno piccolino da coso, per il camper, me l'ha regalato Salvatore, un amico che c'ha quel microfonino palmarino che c'ha il lockdown e l'altoparlante incorporato, proprio piccolino, carino, l'ho usato un paio di volte e poi l'ho messo via, perché nel camper ce l'ho l'antenna del coso, poi stava andando tutto bene e poi di colpo ho visto che non riceveva più, deve essere qualche massa, bisogna, se non l'ho mai più utilizzata. No, l'ho messo due volte e basta, un Midland, però non, se mi dici che cos'è non lo so, uno nuovo, era uno degli ultimi usciti. No, mi pare che non aveva, anzi sì, lo Smith c'aveva quelli a LED, era, adesso non mi ricordo, era arancione, ma baracchini già ne ho da metterlo, ma non mi interessa, non me ne frega niente. Vediamo se è entrato Fabio. Fabio, ci sei? Sì, sto arrivando ancora, sto arrivando. Ok. Perché? Con le vicinanze? Con i tuoi genitori? Ma parliamo te? Sì, addirittura, cacchio, che cos'è? Ma gli dì al papà di lasciar perdere, si va bene come lo fa da un'altra parte, così non ha, dovete stare, ma non sono parenti vostri? Che genere, cioè esiste ancora gente del genere? Mi dispiace, dai, sono cose brutte queste cose. Io cerco sempre di evitare, anche mio fratello aveva avuto delle discussioni, ma poi si sono messi a posto, dai. Speriamo bene, dai. Poi eventualmente stateci un po' attento quando c'è il vento, già lo so, è fastidioso, però c'è a capire che il barbecue lo fai d'estate, non lo fai mica d'inverno. Ma questi sono dalla parte di tuo padre o dalla parte di tua madre, parenti? Non lo so, purtroppo c'è tanta gente ignorante, come quelli che vedono i bambini che giocano, dobbiamo riposare. Io me lo ricordo quando eravamo giù al mare, avevamo la casa al mare, c'erano i miei figli piccoli e ti posso dire che io le tenevo sempre ordinate, nel senso a un certo orario dico tornate dentro o andate da altre parti a giocare, ma c'erano quelli anziani, questi bambini dovete tenerli a casa, eccetera, ma lasciateli giocare che i bambini stanno tutto l'anno chiusi in casa e diamogli un po' di libertà. Purtroppo c'è gente ignorante e sono così, non ci puoi fare niente, cioè, anche queste persone qua ci dobbiamo sopportare. Infatti gli dicevamo sempre, ma tu sei mai stata bambina? Perché siamo stati tutti bambini. Perché il babbo è pure vicino a dove c'hai la casetta tu? Ma perché è così basso? Stavo scendo con 2 watt, con quello piccolino di Zodiac. Ah, vabbè, c'è già solo una partita. Ehi, ciao, qua. Purtroppo quando ci sono situazioni così poi sono uno amico dell'altro, quell'altro protegge all'altro, meglio sempre evitare, lasciar perdere, è inutile, se no poi si creano dei disturbi, delle cose, bisogna starsene e quando sei a casa tua lascia perdere tutti, dici va bene, scusate e te ne vai via. Essere sempre superiori, perché se no succedono problemi, dispetti, iniziano tante cose brutte e a quel punto poi non dormi la notte, magari ti danno fastidio, creano dei problemi, ti avvelenano gli animali, buttano i bocconi ai cani, tante cose possono succedere. Purtroppo questa gente è ignorante e bisogna lasciarla perdere. Boh. Eccoci, avanti Fabio. Stai attento, dai. Spero che non siano così imbecilli, però Riccardi, io ti ascolto bene, non so se Fabio riesce a tirarti fuori, metti l'altro baracchino, perché sennò tu sei 9 qua. Fabio, l'hai ascoltato? Calma che l'ascolto, si avvicina la bocca al microfono, si avvicina la bocca al microfono, lo sento anche bene di radio. Ma così mi senti bene? Così sei un gioiello, perfetto, lascia pure questa parete, vado a sentirti. Sicuro bene, Lo so, purtroppo c'è una gente dispettosa ed ignorante, Riccardi, cosa vuoi fare? Certo, meglio lasciar perdere, evitare, neanche attaccarsi, perché poi bisticciare ti rovini anche il fegato, lo stomaco, ti fai mal di stomaco, per cui meglio lasciarli perdere, ognuno se ne sta a casa propria, è una situazione brutta, la capisco, però è meglio evitare certe cose. E poi a un certo punto sono scatti e succedono cose brutte. Hai visto l'altro giorno è successo un macello, non credo che siano a quei livelli i tuoi vicini, però sono successe cose molto, molto più gravi. Per un basta o non niente per creare una situazione brutta. Riccardi, sta iniziando ad andare male col baracchino, cambialo subito se ve lo rompo. Si è abbassato un bel segnale, mi è sceso a 7, da 9 a 7. Riccardi, cambia immediatamente l'apparecchio, se non lo rompi, deve essere partito qualche componente di lì. No, non sta parlando, però c'è questo rumore sotto, secondo me è partito qualche condensatore, perché di colpo si è abbassata, è iniziato a salire questo rumore e poi non si sente più. Se mi senti, Ricca, cambia subito apparato. Sono tornati. Eia, quello stava dando problemi, se non rompi qualcosa. Eia, però comunque hai capito il discorso. Sì, dai, non ti preoccupare, dai, già non succede niente. Già tuo padre già si sa difendere, tra l'altro era anche nelle forze dell'ordine, non ti preoccupare, dai. Già passa tutto, ho detto, dai, dilli a non preoccuparsi, tuo padre che già finisce la notte e porta consiglio, se sono delle persone meno ignoranti di quanto si crede, probabilmente li passa tutto, di lasciar perdere, la prossima volta quando fate il barbecue fate in modo che il vento sia dalla parte opposta a loro, così si evitano i problemi, non avranno niente da ridire. No, hai capito, non è un altro. E cos'è il problema? Comunque... Vabbè, Fabio, dimmi. No, ma tutto questo fumo è la parte che sta fumando, che volevamo dare a voi, capito? Ho capito, sì. Ma comunque per dirti, no, Babbo non è preoccupato, io sono preoccupato, lui è tranquillissimo. Allora che problemi ci sono? Il problema se fosse stato preoccupato tuo padre, tu non ti preoccupare già sei in buone mani. Cioè tuo padre e tua madre, e poi se non basta fare un fischio e arriviamo veloci, non ti preoccupare. Già non temiamo a nessuno, almeno se serve aiuto io vengo immediatamente. Vengo anch'io. No, perché mi dì. Come? No, stavo dicendo Tonino, vengo anch'io, sì, perché mi dì. Scappa, buonasera a tutti. E viene anche Tonino, io Toni. Io ci metto pochissimo arrivare da lui, 3 minuti. No, c'è problema di qualche amici hai, Riccardi, tu e tuo padre, non ti preoccupare, io vengo immediatamente, no, non mi tiro indietro. Ho capito, ciao Tony, perfetto, allora, ho qualche guardia. Cappa, è solo anche armato, mucchio. No, non ho bisogno di armi, ho già abbastanza le mani e anche i piedi. Vabbè, usiamo le mani giustamente, però se non basta, se sono di più, allora usiamo altra cosa. Ehi, dai, meglio non arrivare mai a quei punti lì, dai. Certo, lasciar perdere, purtroppo c'è gente ignorante. Guarda, quando io stavo al mare, ne vedevo di tutti colori, stavo raccontando a Riccardino. Però ti posso dire, c'aveva una casa davanti, ma lo sai quanto mi dava fastidio il fumo, il barbecue, quando cucinavano, tutto, che c'era un caldo. Ma però alla fine dicevo, siamo d'estate, cazzo, siamo d'estate, sono lì fa d'estate queste cose. E mi davano fastidio, ma non mi sono mai permesso di dire niente. Come non mi sono mai permesso quando riposavi, magari c'erano dei bambini piccoli che si mettevano a scodinzolare, a gridare, il cane, eccetera. E io stavo di lì a quei casutti, hai visto i casutti vicino dove c'è la piazzetta del presidio militare, non so se li conoscete, di lì, quelle case lì. È vero, a Burotu 24 ore su 24, non parliamo del sabato, che era peggio, il sabato notte, guai. E non dormivi mai, e di lì mi dovevo alzare la mattina presto per rientrare a Sassari, a lavorare la notte, facevi tardi, non c'era mai un'ora di sonno, eppure accettavo tutto. Comunque, buonasera Fabio, Roberto, Riccardino, eventuali persone. Sì, ma in conclusione noi abbiamo preso tutta tradursi, perché anch'io, giustamente, se c'è da difendere la persona sono il primo che mi muovo per Riccardino, a che cavolo. Allora è successo che ci hanno, tra l'altro sono anche parenti, confinanti, e stavano facendo un piccolo barbecue in casa loro, e probabilmente forse qualche fumo, qualcosa, è andato vicino nel vicino, e si sono lamentati, li hanno presi a voci, e ci stanno più ancora attaccando questi vicini, che tra l'altro sono anche parenti del padre di Riccardino. Purtroppo sto dicendo, c'è gente ignorante, non sa, vive in campagna, cacchio, dove li faccio in appartamento il barbecue? Purtroppo forse c'è un po' di vento, non lo so, però bisogna anche capire che il barbecue non è che, come si chiama, che c'hai in quell'angolo lì, ce l'hanno e lo devi far lì. Sì, allora, se no, se non vuole che arrosisce qualche cosa, se lo farò loro un domani, mi attacco un bel idrante a 22 atmosfere e porto via il barbecue che è da presso. Ah, ma dice che ne fanno enormi degli incendi, fanno che anche li sporcavano la macchina di cenere e di tutto, per cui non hanno mai detto niente, dice oggi si sono un po' girati, boh, probabilmente il caldo mi fa questi effetti. Era troppo alto oggi, 34 gradi per quello. Avanti Fabio. Non ascolti affatto. È entrato uno, ha detto buonasera, boh. E poi la propagazione si è aumentata leggermente. Mi dispiace che la tua te va più forte Fabio. Boh. Guarda se ascolti in radio. Se ascolti in radio, sì, sentivo 4, sì, il basso, non ho capito perché. Non lo so neanche io. Però forse con la radio, buonasera, mi copiate? Sì, ti copiamo, che sì, chiudo il recinto. No, sono un autista GLS, qua dalla filiale per niente. Ah, sei in basso però, a livello quadrene proprio. Non senti, com'è? Sì, però non ho capito che, non è che l'ha rigenito, quella rigenita arriva alle 9. Questo è Santiago, sì, però non ho capito che è. Porto Torres, cos'è? No, è tutta zona industriale. Sei a Bernieta. Ah, ciao, Roberto da questa parte, chi sei? Beppo, un autista GLS, no, che ho montato le collaborazioni. Non ho capito, purtroppo c'è molta propagazione QRM e non ho sentito, per Daniela, però non ho capito, mi hai salutato, non ho capito chi si, speriamo che si senta meglio, cioè il QRM è altissimo, è 6 in mezzo al QRM. Hai detto Peppone, se non vado errato, attenzione per Daniela, boh, è diventato pietra bianca, boh. Ma stanno per Daniela, mi arriva a bomba qua, cavolo, ce l'ho di fronte, la vedo per Daniela, stranamente non so che parte sei di per Daniela. Ma la filiale GLS. Ah, GLS, la filiale, capito. Ma cacchio, ma sei dentro la GLS, ti sento un bacino di... Prova a parlare, chi sei, non ho capito. Peppone. Peppone. Sì, adesso ho capito, adesso sei più forte, Santiago sì, però, ripeto, c'ho il QRM più o meno a 6, per cui ti tiro fuori con le pinze. La radio è abbastanza forte, in certi momenti è 4, però c'è questo disturbo. Vediamo Riccardino avanti per salutare a Peppone. Ciao Peppone, ben ascoltato, scusi per dire, perché ho un problema di vicinato, non posso alzare troppo la radio, quindi ti ascolto un basso, mi devo avvicinare l'orecchio alla cassa perché non voglio che mi facciano storie. Ehi, a KK, capito. Riccardi, io ti darei un consiglio. E dammi il tuo consiglio. E i consigli ti do io, sono sempre buoni. Se tu sei in garage e te lo tappeti tutto con la cartona delle uova, ma sai quanto è meglio che gli altri non sentono niente? Non ho capito cosa che lì. Tappeti i muri con il cartone delle uova. Ma sono sulla casetta, dovrei tappetare tutto, non che mi trovate in mezzo alle uova. Vai dove vedono le uova, lì sono le galline e ti brucoli tutti i cartoni. C'è la propagazione che c'è. Allora, facciamo riprendere l'amico Peppone, vediamo se ci ascolta ancora, avanti. Sì, sì, a voi vi ascolto benissimo, però mi stanno entrando un po' di spazionare sull'apparato. Ok, dai, questo passaggio ti ho copiato, però a momenti entrano, non so se sono spagnoli o cosa sia. Vai, Tony. Ehi, capo, sì, anche a me è arrivato un video. Ma stai usando un antenino o c'è una macchina in macchina tua, per la niente, per GLS? Eppure che strano, l'altro giorno con Forama ne arrivava 9 più 30 a me, pulito a bomba. Con GLS non è che sia molto più lontano. Sarà in macchina, furgone, buone quelle giurate, non ho capito. No, sono anche nella stessa letta. Mi rovini se non penso che tu faccia in gomma. Buonasera a tutti, Sì, ciao Manuele, ben sentito, ti rilancio a Fabio se lo ascolti e poi a Riccardino. Avanti Fabio per Gin. Caffa Gico, bel bidone, complimenti. Beh, te lo sei comprato un magazzino per mettere il bidone che ti ho fatto. Grazie però Fabio, fa niente dai, quando puoi se riesci a passare non c'è stato problema. No, Caffa, un momentino, un po' così, guarda. Io penso domani di riuscire a finire il baracchino di Tonino, così si libera il banco e dopodiché basta prendere uno dei due pizzi, o uno o l'altro, decidi. Sì, come vuoi, dai, quando è finito uno ti do l'altro. Campa, dai, ti faccio salutare anche da Riccardino, Tonino ti ha salutato, e infatti anche Roberto ti ha salutato già, detto di sì, avanti. Mia, grazie Fabio per il mic, saluto. Emanuele, ciao Emanuele, ben ascoltato. Ciao Riccardi, ciao anche a Roberto, Corrado, amate Roberto. Ah, ti ascolto molto forte, tu a momenti sei bassino e poi altri momenti fortissimo tipo adesso. Perché dall'amico, vero? Ogni tanto nel naffio. Dove sei? Ogni tanto nel naffio. Tu non sei a casa tua, non è di cazzate, Pinocchio. Come la sono a casa mia? Ma non volete. Ma noi, allora quando abbasso le refini ti porto a zero, sparisci. Caso strano sia Santiago 3, non sia a casa tua. Io sono a casa, cosa sono a casa mia? E di sopra a lungo. Vai, Manuè. Ma cosa vai? Manuè, mandaci le coordinate GPS. Sono stato a casa mia, e di sopra a lungo. Sì, come l'altra volta, che eri Santiago 9.10, 9.15, era a casa tua, e poi sei tornato a Santiago 3. Sono a casa, Tony. Perché quanto ti sta arrivando, Tony? Prova, Manuè. Ehi, 1-2-3, 1-2-3. Va che tu 9.25 non sei mai arrivato a casa mia, e buffami l'occhio. Guardate che sono a casa. Vai, l'antenna hai messo? No, non ho messo l'antenna, ma sono a casa. C'hai sempre lo stilo? Sì. Pinocchio, Pinocchio, Pinocchio. Amata, Pinocchio, vedi lì. Non mi sei mai arrivato così, ma non è di cazzati. Non so come arrivo, ma arrivo, cosa ne so. Lungaggio l'ha fatto con l'effetto di più forti. Avanti Riccardino. Già non so che è un paraggio, vero Manuè? Mi gioco. E campagna al gioco. Sì, dell'amico tuo. Sono a casa, Tonino. No, ma arrivi così forte, fine nera. Adesso ti faccio una videochiamata, così ti faccio vedere. Sì, fammi vedere i due baracchini con la videochiamata e mandami su WhatsApp. No, dimmi l'età, te la posso venire, no, su WhatsApp. Ehi, parlando a baracchino con me e dici, Tonino, ti metti anche una mano sulla testa, capito? Dai. Insomma, vogliamo le trombe, vogliamo le trombe. Avanti, Robè. E metti il giornale di oggi pure, Emanuele, vicino, perché sennò Mario non ha un'immagine registrata. Ma sinceramente, Robè, ti è mai arrivato, Emanuele, questo segnale? Mai. Vedi, siccome hai due fiducia, io conosco le pecore, quindi non dico che è una pecora, però è più occhio. Ehi. Ehi, a me è arrivato il segnale qua, Santiago 0, Radio 3, è lui, è lui. No, arriva 9.15 qua, no, è lui. Arriva 9 lui con l'antennino suo. Ah, non mi sono dimenticato l'ultima cosa, non te l'ho fatto. Vabbè, non te la dico neanche in radio, dai. Comunque riguarda una telefonata che hai avuto mentre c'ero io in frequenza, c'era anche un'altra persona, forse hai capito. Forse sì, forse no. Madonna. Scusate, cioè, Mimì, mi sta mandando Manuele. Dice, vedi? Ha messo un po' di cerveccia all'antenna ed è più veloce. Allora hai messo l'antenna? Ma giudice di no, sempre chi sai. Del Barisano. Ma ti stai aiutando, Manuele? No, non è attivo, non è ordine. Comunque ti ascoltavo quando andavi bene massimo 8, adesso sei 9, però la radio è bella piena a 5. Andare. E me hai messo il latteggino nel puttiacchino? E adesso c'è stata niente la terra. Cosa ha fatto, dottor? E sto mandando il video in diretta. C'è gli apparati suoi e sta parlando anche il baracchino. Ma non è a casa sua? Sì, questo è casa sua. Però ha cambiato baracchino. No, ha cambiato forse antenna, che non lo vuol dire, ma è così. Adesso domani mattina passo presto, quando lui è ancora addormentato. Sì, occhio, allora penso a tassarmi. Io attaccio un preso, sai come è di mia vicino a me un meme. Riccardino. Dai, dobbiamo vedere, facciamo una spedizione domani, Tony. Caspita, domani facciamo un bel giro a quelle zone e vediamo un po' cosa ha piazzato questo babauzzo. Tony, come avete i tempi? Cosa fa? Come avete i tempi che si faceva il giro per vedere l'antenna? Come ti sento? Come hai vecchi tempi? Sì, e beh certo, però andiamo di nascosto. Quando lui è ancora addormentato, appena le luci dell'alba, 5 e mezzo, 6 meno 20, e lui sta ancora russando. Tony, dimmelo, lui, visto che ci siamo, andiamo anche da Gianni Occhiorrone. Beh, Gianni si è addormentato anche lui, è il suo cane. Quando si alza Gianni si sveglia il cane. Ragazzi, mi sa che faccio cose sì, causa cambio fatica, eh. E vi saluto, saluto Roberto, saluto Emanuele, saluto Tonino, saluto anche Riccardino, insomma un saluto a tutti e ci sentiamo sempre domani, sempre su queste solite frequenze. Vi do un buon 144 da nuovo parente, buon continuo, buon progetto su questa ruota. Ciao Fabio, buon correntissimo, tutti ci sentiamo domani, no, che sta bene, avanti Roberto. Ciao, ben sentito Fabio. Alle prossimine su questo canale 27075 in perfetta stereofonia da Sassari. Ok, ciao, ciao, avanti Riccardo. Ciao Fabio, ben ascoltato e buon 144 quando lo fai. Comunque bisogna ricordarsi, Robè, modulazione AM è molto importante. Frequenza modulata. Scusate, ma allora devo fare proprio sacchetto o no? E farò sacchetto? E allora pensi tutti il tuo nome, frequenza. Sentiamo domani, solita ora, solito canale. Il russo, ok. Ok, amici della Snoccia, te le cose tu, come si chiama? Colpo grosso, ma nessuno l'ha visto. Sì, smaila. Ehi, come si chiamava quella tipa? Vabbè, lasciamo perdere. Non è argomento da parlare adesso, dai. Cin cin cin cin. Se no ci siamo nelle camere di mezzo, dai, che ci sono persone troppo giovani qua. Ok, vai Riccardo, a te. Chissà chi è troppo giovane, forse Tonino. Sì, sono picciolino io. Ciao Fabio. Non so, Emanuele, quanti anni c'hai tu? Sono piccolino anche io, vabbè. Ciao Fabio, comunque avessimo tutto. Ti aspetto comunque, dai Fabio. Ok. Cos'è, vabbè? A parte Riccardino, in questo momento forse sei il più giovane di tutti tu. Sì, con la gola. Non lo so, penso Tonino e poi ci sono io. E poi in ordine c'è Emanuele e poi c'è Riccardino. Esatto. E qui lui è molto più giovane di me sicuramente, di te pure tu. Sei il mio figliuccio. Vabbè, non è detto, io c'era mio padre che era il figliuccio, c'era la stessa età, mi pare un anno di differenza. Vabbè, io l'ho messo la mano sulla spalla. È nato un cingumino. Ma battesimo o crisi? Crisima. Eia, ma siete pure parentati? No, siamo solo amici. E poi l'ho crisimato. Eia. Ne abbiamo combinato uno o due, che due rigiati abbiamo fatto, chiaramente Emanuele, c'è qui Ancio. Bei tempi, sì. Non noti niente, mi tutta gonfia sono. A me l'orologio te l'ha regalato Emanuele. Ah, io da l'orologio si chiamano da ragazzi. Non lo so, e quando ti ha battezzato? Quanti anni fa ti ha battezzato? Mi hai battezzato, così va. Sì, sarà proprio 23 anni, 21 anni. Vabbè, già si usavano ancora gli orologi, cosa ti regalavano? La penna. Ah, lo so, non mi ammetto che l'ho da giurato, boh. Che bracciale mi avete regalato, dai. Un attimo, al telefono. Se l'ha pure venduto mi per comprarsi il baracchino, il Saturno X. Sì, certo, io sempre a fondo non ho preso il baracchino. Sto scherzando naturalmente. Ok, vai Riccardi, calmata c'è la situazione dalle tue parti. Sì, non lo so, c'è la musica a palla, qua hanno dichiarato guerra. Ma che musica? A me non sembra la musica. Radio Maria. No, non me lo dire, no. Te lo dico invece. Ah, ma messo Radio Maria. Ci vogliamo proprio fare guerra. Vabbè, magari ci hanno da pregare, non lo so, ascoltare il rosario, vabbè, non c'è problema, tanto a un certo punto anche loro si dovranno dormire, non è così, Ricca? Magari. E tu magari metti musica alla discoteca, dai, di sottofondo, di quelle boom boom boom boom moderne a palla. Ma che musica alla discoteca, qua ci vuole musica country a bomba. Ah, giusto, voi siete stile, come si chiama, West Coast, Cowboys. Comunque, vabbè, è bassa la radio, non va bene. Oh, è molto forte la tua, un bel forte. Andale, dai, va bene, va bene, va bene. Vai, Riccardo. Si vuole vantare che ha l'antenna nuova. No, scherzo. Sotterretto ce l'ho, Riccardo. Ma che baracchino è? Saturno Echo? Sì, sì, la Galaxy. E il microfono? Il microfono è Dynamic Mic. Ma l'originale, quello non è amplificato? No, questo è quello più amplificato. E che marca? Te l'ho detto, Dynamic Mic, quello con la rotolina sopra. Ma da palmo è questo? Sì, sì, sì, sì. No, è sempre forte, è molto forte come cosa. Ed è a due. Già me lo immagino, se alzi. Ma io ho visto l'immagine tua che stavi prendendo il Saturn Echo e il coso, il Mutico. Sì, ho fatto, siccome ero con un studio dell'età, provo a mettere, ma non lo stavo mettendo, provo a mettere la Galaxy, ma solo la Galaxy ho messo. Perché ho visto una foto, non mi ricordo dove l'ho vista, da qualche parte, quello marketplace, qualcosa del genere, e c'era il Saturn Echo con sopra il Multicom. Ma tu che ce li hai tutti e due, in ricezione è meglio il Multicom, o confermi? Come ricezione va benissimo anche il Multicom, però anche la Galaxy ce l'ha la ricezione, abbastanza buono. Perché il Galaxy spinge molto bene come modulazione, però come il Multicom io non ne ho ancora visto di baracchini che ricevono così bene, pulito, senza disturbi. Sì, sì, sì, hai ragione, infatti, hai ragione. Infatti adesso mi devo far mettere le luci da fatto e poi voglio aumentare un po' il costo dell'ARC e aumentarlo infatti. Fabio, Emanuele. Dimmi Riccardo. Forse ho scoperto chi sei, inizi con la L di cognome. Ok, allora sì, sì. E allora le scopri questi segreti tu, c'hai un libro nero, Riccardo? No, perché ho visto che lo segue il signor Antonio. Ah, così, quindi bisogna stare attenti a te, quando tu dalle amicizie vai a controllare le cose degli altri. E non farsi la roba. Certo che fa bene, bisogna essere informati. Io prima di parlare con una persona, Riccardino, dicesci che mi guardo chi è e vediamo se è un malintenzionato o una persona che ha dei coso con la giustizia. Oh signori, io adesso vado via, dai, mi guardo un pezzo di partita, la parte finale della Juve, non sono Juventino, però almeno mi guardo qualcosa, dai. Vi saluto, magari ci sentiamo domani. Ciao Emanuele, ciao Tonino, se c'è ancora. Riccardino e eventuali amici qua sul canale 10. Io faccio QRT, ciao ciao. Ciao Roberto, buon contatto e alle prossime. Anch'io annuncio il mio QRT che vado a vedere se riesco a trovare un trattato di pace. Ci sentiamo domani, ciao Emanuele, Tonino e a tutti gli altri eventuali in ascolto. Ti ho dimenticato, ciao ciao a tutti. Ciao Riccardino. Ciao Riccardino, ciao Roberto. Tonino, lo chiamo dopo al telefono. Signori, mi copiate meglio adesso? Sono io, Daniele. Ah, scusa, ciao Daniele. Dove sei? Sto andando in 144, scusate, ciao a tutti, sto chiudendo. Questi giorni che cosa stai facendo di casino? Io cosa sto facendo? Al baracchino, con il cavallo, parapendio, campeggio. Ah, ok. Poco sei veloce parlando. Sì. Manuele, anche Manuele ha chiuso, da. Scusa Daniele, ti saluto che devo portare anche tutta l'attrezzatura giù, tutti i baracchini. perché sono la casa sull'albero. Ah, ok. Dai, ci sentiamo domani. Buonanotte anche a te. Ciao.